Victoria. Lei e Malte parcheggiarono davanti al sonnacchioso mini market ICA di Evi. Il giorno prima lui si era rifiutato di pensare alla spesa, perciò adesso avrebbero dovuto accalcarsi con tutti gli altri che facevano provviste per la settimana. C'era pioggia nell'aria e un sacco di gente in tuta da ginnastica trascinava pesanti borse verso le macchine arrugginite. Victoria entrò e prese un carrello. «Facciamo in fretta, e niente stronzate inutili, non sono milionario», borbottò Malte. «No, decisamente non lo sei», pensò Victoria. Il marito la precedeva. La maglietta troppo corta abbinata ai pantaloni della tuta che gli scendevano sui fianchi faceva sì che mettesse in mostra un bel pezzo della fessura tra le natiche. Ma lui se ne fregava. Salutava con uno stanco «ciao» o con un cenno della testa i conoscenti che incrociavano. Arrivati allo scaffale del latte, trovarono Mi, la moglie thailandese di Lars. Malte sospirò e incrociò spazientito le braccia, mentre la donna minuta si apriva in un largo sorriso. «Come se qualcuno le avesse aperto la faccia da un orecchio all'altro con un coltello», pensò Victoria. Mi era sempre di buon umore. Cosa aveva che non andava? Davvero si trovava bene in quel buco di culo di paesino, in mezzo a quei contadini stupidi e insolenti? «Ciao, Victoria, come stai?» Victoria rispose al saluto con un sorriso tirato. Nel frattempo, anche Lars e Malte si erano trovati. Le loro risate sguaiate risuonavano in tutto il negozio. «Faccio i noodle questa sera. Tu cosa prepari?» chiese Mia allegra, guardando nel carrello di Victoria e iniziando a tirare fuori i suoi acquisti per osservarli. «Quiche al cianuro e frammenti di vetro», pensò Victoria. «Pittipanna», rispose. Non riusciva nemmeno più a sforzarsi di sorridere. Lars e Malte andarono loro incontro, uno con le braccia sulle spalle dell'altro. «Dobbiamo festeggiare. Molla quella robaccia», disse Malte, indicando i prodotti nel carrello. Victoria lo guardò perplessa. «Lars sta per diventare papà», spiegò lui con una pacca sulla schiena dell'amico. «Mi me l'ha detto ieri», precisò Lars orgoglioso. Victoria sospirò tra sé e sé. Uscire di casa le faceva sempre piacere. Abby non era una meta da sogno, ma almeno rompeva la monotonia. La prospettiva di cenare in quattro al ristorante, però, non l'allettava per niente. «Non dovevamo fare la spesa? E che cazzo! Possibile che non riesci mai a essere un po' allegra e spontanea?» sbraitò Malte. «Non hai sentito cosa hanno detto? Stanno per avere un bambino. Bisogna festeggiare». «Devo passare da casa a cambiarmi». «E anche tu», disse Victoria, indicando i pantaloni della tuta tutti macchiati. «Ah, mi faccio prestare una camicia da Lars. Vero, Lasse?» «E tu puoi prendere un vestito di me. Sarà divertente, no?» Victoria guardò la minuta thailandese, che sorrideva con il pollice alzato. Era rabbrividì.